Può anche darsi che un bel giorno ad una quercia antica io sogni un Cristo tutto biondo e con la mano amica che mi racconti ma fino in fondo la sua vera vita, ed io saprò se andare avanti o se farla finita. Lui mi dirà di essere figlio di una santa madre, un po' borghese, un po' massaia, un po' anche puttana, un poco santa, un po' dannata, un poco saggia strana, un poco mamma, un poco donna e soprattutto umana. Lui mi dirà: io ero bimbo e vivo in allegria, in riso, in pianti, no di amore, pure in fantasia, bimbo di terra o di officina o di salumeria, bimbo tra bimbi e come bimbo, soltanto bimbo e così sia. E poi da grande fui contadino e fui studente, via, fui operaio, fui padrone, e poi fui ladro e via, e fui ruffiano ed assassino, e saggio e pazzo e via, fui mentecatto poi generale, poi commissario e spia. Per esser Dio io ero tutto ed ero anche niente, e questo è umano e molto in uso tra la divina gente. E allora scelsi sudando sangue sotto l'ulivo ardente, e scelsi rosso ma rosso sangue contro il nero vincente.